Capitolo 6. Nel parco. Che cosa fate oggi, ragazze? Domandò Filippa facendo capolino nella stanza di Anna un sabato pomeriggio. Andiamo a fare una passeggiata nel parco, rispose Anna. Io dovrei rimanere in casa a finire la mia camicetta, ma non posso stare a cucire in un giorno come questo. C'è qualcosa nell'aria che mi entra nel sangue e fa lievitare la mia anima. Le mie dita si contraggono e ho fatto una cucitura tutta storta. Sono perciò pronta a tuffarmi nel parco tra le chiome dei pini. Quell'andiamo include solo te e Priscilla? Oh, vediamo, include Gilbert e Charlie e saremmo tutti molto felici se includesse anche te, signorina. Ma, obiettò delusa Filippa, se vengo devo reggere la candela e sarebbe un'esperienza nuova per Filippa Gordon. Bene, le nuove esperienze sono costruttive. Vieni, così sarai in grado di simpatizzare con noi, povere mortali, costrette a reggerti il lume così di frequente. Ma dove hai ficcato le tue vittime? Oh, ero stanca di tutti quanti e non ero in grado di reggerne nemmeno uno oggi. D'altronde oggi mi sento un po' nera. Appena appena, proprio soltanto un bordino intorno intorno. Ho scritto ad Alec e Alonso la settimana scorsa, ho messo le due lettere nelle rispettive buste, ho vergato l'indirizzo, ma non le ho imboccate subito. Quella sera era successa una cosa buffa, cioè Alec l'avrebbe trovata buffa, ma Alonso non avrebbe approvato. Avevo fretta, così ho agguantato la lettera di Alec, almeno così credevo, l'ho tirata fuori dalla busta e ho aggiunto un po' scritto. Poi ho imbucato le lettere e stamane ho ricevuto la risposta di Alonso. Ragazzi, avevo aggiunto il po' scritto alla sua lettera e lui era letteralmente furioso. Sono sicura che gli passerà e non me ne importa nulla se non gli passa, ma mi ha rovinato la giornata. Così ho pensato di venire da voi a tirarmi su di morale. Con l'inizio del campionato di football penso che non avrò un solo sabato libero. Adoro il football. Mi sono comprata un bellissimo cappellino e una maglietta a strisce con i colori di Redmond da indossare durante le partite. Per essere precisi, sembrerò un'insegna da barbiere che se ne va a spasso. Anna, lo sai che il tuo Gilbert è stato nominato capitano dei freshmen? Sì, ce l'ha detto ieri sera. Disse Priscilla, vedendo che Anna, risentita, non rispondeva. Lui e Charlie erano di sotto. Noi, sapendo che sarebbero venuti, abbiamo tolto di mezzo e sistemato con grande giudizio, in modo che nessuno potesse usarli, i cuscini della signorina Ada. Quello elaboratissimo con il ricamo in rilievo l'ho buttato sul pavimento, nell'angolo dietro la poltrona. Pensavo che lì non corresse pericoli. Ma ci crederesti, Charlie Sloan ha fatto per sedersi su quella poltrona, ha visto il cuscino che c'era dietro, l'ha ripescato solennemente e ci si è accomodato sopra, rimanendovi tutta la sera. Avessi visto come l'ha ridotto. Oggi la povera signorina Ada mi ha domandato, sempre sorridendo, ma con che aria di rimprovero, perché avevo permesso che ci si sedesse sopra. Io le ho dato la mia parola che non l'avevo fatto, ma che di fronte alla predestinazione combinata con la inveterata slonitudine, io ero davvero impotente. I cuscini della signorina Ada mettono davvero a dura prova i miei nervi, disse Anna. Ne ha finiti due la settimana scorsa, li ha imbottiti e ricamati, senza lasciare neppure un centimetro libero. Siccome non è riuscita a trovare un solo posto senza cuscini, li ha ficcati contro la parete del pianerottolo delle scale. Sembrano messi apposta per far cadere la gente, e se si salgono o scendono le scale al buio si cade, lunghi distesi. Domenica scorsa, quando il dottor Davis pregava per tutti coloro che erano esposti ai pericoli del mare, io ho aggiunto dentro di me e per tutti coloro che vivono in case in cui i cuscini sono troppo amati, senza un pizzico di saggezza. Bene. Noi siamo pronte e vedo i ragazzi che arrivano da Old St. John's. Allora, ti unisci a noi, Phil? Vengo se posso stare con Priscilla e Charlie. In questo modo il grado di sopportabilità sarà a livelli accettabili. Quel tuo Gilbert è carino, Anna, ma perché Charlie se ne va sempre intorno con gli occhi da pesce fritto? Anna si irrigidì. Non aveva una gran simpatia per Charlie Sloan, ma anche lui era di Avon Lee e nessun estraneo aveva il diritto di ridere di lui. «Charlie e Gilbert sono sempre stati i miei amici», disse freddamente. «Charlie è un bravo ragazzo, non è da biasimare per via dei suoi occhi». Non dirmi una cosa simile. Lo è. Deve aver commesso qualcosa di terribile nella sua precedente esistenza per venire punito con un paio di occhi simili. Pris ed io ci divertiremo un sacco oggi pomeriggio con lui. Lo prenderemo in giro e lui nemmeno se ne accorgerà. Senza alcun dubbio, le due depravate P, come le chiamava Anna, misero in pratica i loro amabili propositi. Ma Charlie Sloane fortunatamente non se ne avvide e pensò anzi di essere un ragazzo assai dotato per essere attorniato da due studentesse di quel calibro e soprattutto da Philippa Gordon, la bellezza della classe tanto ambita. Ciò avrebbe certamente fatto colpo su Anna, facendole constatare come certa gente sapeva apprezzarlo al suo giusto valore. Gilbert e Anna si attardarono un po' dietro gli altri, assaporando la quieta e tranquilla bellezza del pomeriggio autunnale sotto i pini del parco, lungo la strada che saliva costeggiando la sponda del porto. Il silenzio è come una preghiera, vero? Disse Anna, il viso alzato verso il cielo sfavillante. Come amo i pini! Sembrano affondare le radici nel profondo della poesia di tutte le età. Ma è di così gran conforto sgusciar via dal mondo per venir qui, di tanto in tanto, a parlar con loro. Sono sempre così felice in questo posto. Così, rapiti dai silenzi montani, come da magici incanti divini, dimentican gli affanni come gli aghi lontani che il vento ha scrollato dai pini. Citò Gilbert. Fanno apparire così insignificanti le nostre piccole ambizioni, vero Anna? Credo che se mai avrò un grande dolore, verrò qui a cercar conforto tra i pini, disse Anna con aria sognante. Spero che il dolore non ti tocchi mai, Anna, disse Gilbert, che non riusciva ad associare l'idea del dolore a quella creatura splendente e gioiosa che gli camminava accanto, inconsapevole del fatto che coloro che sanno librarsi fino alle più alte vette possono precipitare nelle più cupe profondità e che le nature che sanno gioire più intensamente sono anche quelle che bevono fino in fondo il calice della sofferenza. Ma è inevitabile, una volta o l'altra, riflette Anna. Ora la vita per me è una coppa traboccante di luce accostata alle mie labbra, ma deve pur contenere dell'amaro. Ce n'è in ogni coppa. Anch'io assaggerò il mio un giorno o l'altro. Spero solo di essere abbastanza coraggiosa e forte da sopportarlo e spero che non avvenga per colpa mia quando sarà l'ora. Ricordi quando ha detto domenica scorsa il dottor Davis, i dolori che ci manda il Signore sono accompagnati dalla forza per sopportarli, mentre quelli che ci procuriamo noi con la nostra follia o debolezza sono di gran lunga i più ostici? Ma non possiamo parlare di dolore in un pomeriggio come questo. È il momento giusto per la gioia di vivere, invece, non ti pare? Oh, se dipendesse da me, io spazzerei via tutto tranne la felicità, disse Gilbert in un tono che significava attenzione, pericolo. Saresti poco saggio, assai poco, replicò impetuosamente Anna. Sono certa che la vita non è interamente vissuta se non è frammista al dolore e se non ci pone degli ostacoli, anche se devo ammettere che siamo disposti a riconoscerlo solo quando siamo felici. Affrettiamoci, gli altri hanno già raggiunto il padiglione e ci stanno facendo segno. Sedettero nel piccolo padiglione a guardare un tramonto autunnale di vivida porpora e pallido oro. Alla loro sinistra si stendeva Kingsport con le sue guglie e i suoi tetti velati da una cortina di nebbia color porpora. Davanti a loro luccicavano le acque, simili a morbida seta nel loro argenteo grigio, mentre all'orizzonte si stagliava nitida l'isola William, emergente dalla bruma a guardia della città, come un robusto mastino. La luce del suo faro saettava nella nebbia come una stella accorata, e un altro gli rispondeva oltre l'orizzonte. «Hai mai visto un posto così protetto e inaccessibile come l'isola William?» chiese Filippa. Non che io voglia l'isola William in particolare, tanto non potrei averla. Guarda, la sentinella sulla sommità del forte, dritta accanto alla bandiera, non è romanzesca? A proposito di cose romanzesche, disse Priscilla, siamo andati alla ricerca dell'Erica, ma non ne abbiamo trovata neanche un po'. È troppo tardi, suppongo. Erica? Esclamò Anna. Ma l'Erica non cresce in America. Ci sono due soli luoghi dove cresce in tutto il continente, disse Phil. Uno è in questo parco e l'altro in un qualche posto della Nuova Scozia, non ricordo dove. Un anno, in primavera, si accampò qui un famoso reggimento scozzese, lo squadrone nero, disse Anna incantata. Passiamo da Spofford Avenue per tornare a casa, suggerì Gilbert. Così potremo saziarci gli occhi con le meravigliose dimore in cui i ricchi e i nobili abitano. Spofford Avenue è la più bella strada residenziale di Kingsport. Nessuno può farsi una casa lì se non è miliardario. A proposito, intervenne Phil, c'è proprio qui una casina bella da morire che voglio mostrarti, Anna. E non è stata edificata da un miliardario, è la prima casa all'uscita del parco. Deve essere cresciuta quando Spofford Avenue era ancora una strada di campagna. È cresciuta, non è stata costruita. A me non interessano le case su Spofford Avenue. Sono troppo lustre e troppo leccate. Ma quell'angolino è un sogno. E il suo nome. Ma aspettate finché non l'avrete vista. La scorsero mentre risalivano sul crinale della collina bordato di pini, all'uscita del parco. Proprio in cima, dove Spofford Avenue sfociava in una piccola strada, c'era una casina bianca, bordata su ogni lato di pini che, a proteggerla, stendevano i loro lunghi rami sul suo basso tetto. Era coperta di viti rossastre e dorate, tra cui occhieggiavano finestre dalle persiane verdi. Davanti si stendeva un minuscolo giardino circondato da un muretto di pietra. Sebbene fosse ottobre, il giardino era ancora rigoglioso e dolce, con adorabili fiori del buon tempo antico, magici e quasi eterei, verbene, alissi, petunie, calendule, crisantemi e altri dai nomi fiabeschi o sconosciuti. Un sentiero di mattoni disposti all'isca di pesce correva dal cancello al portico anteriore. Sembrava che tutto fosse stato portato lì da qualche remota località di campagna. Emanava un'atmosfera indefinibile che faceva apparire le case circostanti, a partire dal grande palazzo cinto da un prato all'inglese e appartenente a un re del tabacco, dure, appariscenti e presuntuose. Come aveva detto Phil, era come se la differenza fosse tra l'essere nato e l'essere costruito. Oh! È il più bel posticino che abbia mai visto, disse Anna estasiata. Mi procura una delle mie vecchie, deliziose, buffe fitte di piacere. È più carina e dolce di quella della signorina Lavendar. Vorrei che notaste in particolar modo il nome, disse Phil. Guardate, è scritto in lettere bianche sopra l'arcata del cancello. Patty's Place. Non è carino da morire, specie in questa strada di boschi di pini, filari di olmi e poderi di cedri. Il posto di Patty, signori, io lo trovo adorabile. Hai idea di chi sia Patty? Patty Spofford è il nome della vecchia signora a cui appartiene. Vive nella casa con sua nipote. Ci vivono da centinaia di anni. Beh, forse un po' meno, Anna. L'esagerazione può essere una licenza poetica. Ho sentito dire che i ricchi hanno cercato di comperare il terreno un sacco di volte. Vale una fortuna adesso, sai? Ma Patty non ha tenuto affatto in considerazione le offerte. E dietro la casa, al posto di un cortile, c'è un meleto. Lo vedrete quando ci avvicineremo. Un vero meleto, qui, in Spofford Avenue. Sognerò Patty's Place stanotte, disse Anna. Mi sento come se gli appartenessi. Mi domando se ci capiterà di vederne l'interno. È improbabile, disse Priscilla. Anna sorrise misteriosamente. Sì, è improbabile, ma penso che succederà. Ho una bizzarra, esaltante ed elettrizzante sensazione, potete chiamarlo presentimento se preferite, che Patty's Place ed io faremo una più approfondita conoscenza. Capitolo 7. Di nuovo a casa. Quelle prime 3 settimane a Redmond erano sembrate lunghe, ma il resto del tempo volò via come il vento. Prima di rendersene conto, gli studenti di Redmond si trovarono alle prese con gli esami di Natale, uscendone più o meno trionfanti. L'onore di essere i primi tra le matricole toccò ad Anna, Gilbert e Filippa. Priscilla fu assai brillante e Charlie Sloane se la cavò dignitosamente, anche se si comportò come se li avesse sbaragliati tutti. Non posso credere che domani a quest'ora sarò a Green Gables, disse Anna la sera precedente la partenza. Eppure ci sarò. E tu, Phil, sarai a Bolingbroke con Alec e Alonso. Ho voglia di vederli, ammise Filippa, sorseggiando una tazza di cioccolata. Sono davvero dei cari ragazzi, sapete? Oh, me la spasserò proprio durante le feste. Non ci saranno limiti alle danze, ai giri per la città e alle baldorie. Ma non ti perdonerò mai, Regina Anna, di non aver accettato di venire a casa con me per le vacanze. Si trattava solo di 3 giorni con te, Phil. È stato carino da parte tua propormelo e io sarò felice di accettare una volta o l'altra, ma ora non posso, devo, capisci, tornare a casa. Non sai quanto ho aspettato questo momento. Non ti divertirai nemmeno un po', disse Phil sprezzante. Ci saranno uno o due noiosi ricevimenti e tutte le vecchie chiacchiere su quel che fai, sia in faccia a te sia alle tue spalle. Morirai di malinconia. Ad Avonlea? Si stupì Anna. Se fossi venuta con me ti saresti divertita un sacco. Oh, Bolingbroke impazzirebbe del tutto per te, Regina Anna, per i tuoi capelli, il tuo stile e tutto quanto. Sei così differente. Avresti avuto successo, e che successo? E io avrei brillato di luce riflessa. Non sarei stata la rosa, ma accanto alla rosa. Dai, vieni, sii carina, Anna. Oh, il quadro che fai dei miei successi mondani è davvero affascinante, Phil. Ma te ne presenterò un altro da contrapporre al tuo. Sto per andare a casa, in una vecchia fattoria di campagna, una volta verde e ora spoglia, circondata da meli e meli, ora privi di foglie. Ai suoi piedi scorre un ruscello e alle sue spalle si stende una fitta abetaia, dalle cui fronde ho udito il vento e la pioggia trarre musica d'arpa. Non lontano brilla tra i prati uno stagno, le cui acque saranno ora grigie e quiete, e ci saranno due vecchie signore nella casa, una alta e snella, l'altra piccola e grassoccia, e ci saranno due gemelli, una bimba modello e l'altro quello che la signora Linde definisce il flagello di Dio. Ci sarà pure una piccola stanza in alto sopra il portico, dove aleggiano folti antichi sogni, e anche un lussureggiante, enorme e soffice letto di piume per me. È l'ottava meraviglia delle meraviglie del mondo, dopo tanti giorni trascorsi su un duro materasso di una camera in affitto. Che ne dici del mio quadro, Phil? Che è davvero strambo, bofonchiò Phil. Ma non ti ho ancora parlato del soffio che gli dà vita, soggiunse dolcemente Anna. Là c'è tanto amore. Amore per me, Phil. Amore leale, tenero, quale non ne troverò in nessun altro luogo al mondo. Amore che palpita in attesa di me. E ciò rende il mio quadro un capolavoro, anche se i colori non sono brillanti. Phil si alzò silenziosamente e corse verso Anna, abbracciandola stretta. Anna, farei come te, disse semplicemente.